Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. You are. dancing with that piece of calico. What are you gonna do, boss? Bigger. I bury this muzzle deep enough in his back, nobody will hear the shot. Careful, Buford. You ain't got but one bullet with that. I only need one. Holiday in a summer place, drinking beer with you 5 years ago. Dicono che sono malata. Non so bene perché mi trovi in questa clinica. Mi ha portato Magda nella notte, pensando che avessi tentato di suicidarmi. Ho provato a spiegarle il giorno successivo che quella non era la mia intenzione. Magda non capisce che ero soltanto stanca. Per questo ho perso conoscenza. Questo era l'incipit di Noi che ci vogliamo così bene, di Marcela Serrano. C'è molta Italia in questa seconda parte di Eclettica, è la voce di Giulio Caperdoni quella che vi sta tenendo compagnia fino alle ore 20. E vi ricordo anche che esiste la lista nera, ovvero sia la possibilità di ricevere direttamente nella vostra casella di posta la playlist della trasmissione. Per farlo basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com e dichiarare la propria intenzione ad esserne parte. C'è molta Italia, a parte gli Undomskulen, i Canadians, e poi la novità da parte dei Demo Gematics, che preannuncia quello che sarà il loro terzo nuovo album che uscirà per Ghost Records nella primavera 2008, che è anticipato da questa Down My Spine, che segna anche l'esordio per la neonata Wild Honey Records. Ed è ancora Italia anche con i Joycat. crash riding the dawn. Derringer smithy. Small but effective. Last time I used it, fella, took 2 whole days to die. Bled to death inside. It was real, real painful. That means you'll be dead by about supper time Monday. Di melodia nel caos comunque riesce a sopravvivere. Loro d'altronde si chiamano Psychedelic Horse Shit, quindi non c'era troppo da sperare, già dato il nome. Poi, visto come loro hanno autodefinito il genere che fanno, lì le speranze erano definitivamente tramontate. Loro dicono di fare shitgaze. Ce li siamo ascoltati con Portals ed Eclettica, che si avvicina alla sua conclusione. Manca ormai solo un brano con un approccio altrettanto sgangherato, però in questo caso si tratta di una cover dei Velvet Underground. Lui usa uno pseudonimo, si presenta come Atlas Sound. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 8, volume numero 2, indice, My Robot Friend, The Ravionettes, The Warlocks, Radiohead, The State of Samuel, Hefner, Ungdomsskolen, Canadians, The Mojomatics, Joycat, Psychedelic Horseshit, Atlas Sound. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.